Letture di Radio 24. Si chiama Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, ma sotto il titolo c'è dell'altro. Si tratta di un elenco di contributi che le commissioni bilancio di Camera e Senato hanno approvato per finanziare tanti piccoli progetti, su richiesta e indicazione di deputati e senatori, nei loro collegi. Niente li ha fermati, nemmeno lo spread che veleggiava impazzito verso quota 600 punti. Non erano bastati quei 265 milioni di euro distribuiti a pioggia negli ultimi 3 anni. Il 12 novembre del 2011, pochi giorni prima che il governo di Mario Monti giurasse davanti a Giorgio Napolitano, la legge di stabilità stanziava altri 50 milioni. Difficile dire, con la spending review incombente, se quei soldi qualcuno li vedrà mai. Ma l'impegno per continuare a far sopravvivere la famigerata legge mancia, sia pure con un trucco, quello va almeno riconosciuto al nostro Parlamento. Che cos'è la legge mancia? Si tratta di un meccanismo per cui veniva messa a disposizione dei parlamentari una certa somma ogni anno, che veniva poi distribuita sul territorio in base alle indicazioni di deputati e senatori. Una mancia per i collegi elettorali. Di questo si trattava. Abolita dal governo di Romano Prodi, è resuscitata con il ritorno di Silvio Berlusconi, ma sotto una forma nuova, quella di un fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, il quale funzionava esattamente come la legge mancia. Anche in questo caso, infatti, i soldi venivano distribuiti con un decreto del Ministero dell'Economia che semplicemente ratificava gli elenchi dei contributi predisposti dalle commissioni parlamentari. La tutela dell'ambiente, un pietoso pretesto, come ha riconosciuto qualche giorno fa una relazione della Corte dei Conti che ha fatto le pulci a tutta quella operazione. Come anche la promozione dello sviluppo del territorio non era altro che la scusa per giustificare, sottolineano i magistrati, gli interventi più disparati. Ecco spiegato come sia possibile trovare nelle liste dei circa 1.800 finanziamenti anche i 250.000 euro spesi nel maggio del 2010 dal comune di Bergamo per la Dunata Nazionale degli Alpini, oppure i 100.000 impiegati dal comune di Tolmezzo, Udine, per l'ampliamento dello skate park, o ancora i 35.000 utilizzati dal comune di Terlizzi, in provincia di Bari, per la rassegna internazionale dell'Arpa Celtica. Vero è che i denari di quel fondo sono stati utilizzati anche per far fronte a spese e investimenti necessari, magari privi di stanziamenti. È il caso di molti interventi del comune dell'Aquila, anche se nel mucchio sono finite cose del tipo acquisto e posa in opera statua Giovanni Paolo II, 30.000 euro, che non c'entrano molto con l'ambiente e lo sviluppo, ma ancora meno con il terremoto. Con i soldi di quella specie di legge mancia, i carabinieri di Genzano hanno comprato un'autovettura di servizio, 41.400 euro. I commissariati di Sulmona e Avezzano, 2 macchine ciascuno, 76.000 euro in totale. E se le associazioni aquilane Orchestra Città Aperta e Opera Prima e Itinerari d'Arte hanno potuto finalmente comprare i loro pianoforti a mezza coda distrutti dal sisma, la US Primavera Rugby di Roma ha potuto dotarsi di un'autoambulanza. 20.000. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, Mancia assicurata, tanto paghiamo noi, dal Corriere Economia di lunedì 16 luglio.